Buongiorno Rita. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Cosa è successo a suo marito? Guardi, è un argomento che mi ha particolarmente toccato, in quanto sentivo, insomma, io sento, ascolto sempre la vostra radio. E ora mio marito ha una piccola azienda di, diciamo, di, nel campo dell'edilizia, e trovo che ultimamente le banche sono veramente peggio degli usurai. Molti si rivolgono a zingari dalle nostre parti e ad usurai proprio perché loro non concedono nulla, nonostante le garanzie che possono venire fuori da capitali, da immobili. E le dico un episodio diciamo spiacevole che accade soprattutto non tanto da, insomma, dalle parti nostre. Ci sono le banche popolari tipo Lanciano Sulmona, non so se fanno sì, parte le delle popolari si chiamano in maniera diversa a secondo del territorio, sì quelle del territorio. E diciamo che nonostante in un anno siano stati effettuati movimenti pari a 80.000, 100.000 euro, di fronte a un 3.000 euro che può essere un uno scoperto temporaneo, una copertura di una carta di credito, trovano difficoltà anche ad erogare un minimo fido che dovrebbero, visto il lavoro, visto insomma che è un periodo di crisi per tutti, in quanto i clienti non pagano, in quanto non hanno liquidità, il problema è per tutti. Però mi sento proprio defraudata da questo sistema che prima invece andava molto bene.